Allora io passerei subito il microfono al professor. No. Grazie. Dunque, una precisazione, io non parlerò di visita pastorale, ma di visita apostolica, perché questo è il lavoro che io sto compiendo. Dunque, la visita apostolica è condotta su emissario della Santa Sede e ha caratteristiche totalmente diverse dalla visita pastorale, ha una funzione squisitamente giuridico-amministrativa e si occupa molto meno del dato pastorale in quanto tale. La computerizzazione dei dati contenuti nella visita apostolica di Gerolamo Ragazzoni a Milano non era lo scopo principale del lavoro intrapreso, anche se alla fine si è ottenuto con l'indicizzazione la possibilità di un rilevamento quantitativo e qualitativo su una fonte estesa e di particolare interesse. I motivi che hanno portato alla decisione di procedere all'edizione della visita apostolica sono diversi. Si riferisce questa visita apostolica a una realtà politico-religiosa di particolare rilievo, Milano, dominio spagnolo periferico e diocesi di Carlo Borromeo. Cade la visita apostolica tra il maggio del 75 e il maggio del 76 a 10 anni dall'arrivo in diocesi di Carlo Borromeo e costituisce quindi un momento di valutazione dell'operato di questo vescovo all'interno di una realtà vasta come la diocesi di Milano. La visita cade in un momento di piena crisi tra potere religioso, almeno tra autorità ecclesiastiche e potere politico. I rapporti tesissimi tra il Borromeo e le magistrature locali e il Senato di Milano, i rapporti altrettanto tesi tra Borromeo e Madrid per la questione giurisdizionale, i rapporti non buoni che corrono all'inizio del 75 tra Borromeo e la Santa Sede. La realtà della diocesi di Milano poi presenta dei lati non indagati dal Borromeo nonostante i 10 anni di episcopato. Una parte non ancora indagata sui monasteri femminili e tutti i Pialoca cittadini e della diocesi e tutti gli ospedali considerati esenti, tranne 2. Altro dato importante era che la visita si chiude nell'arco praticamente di 13 mesi e cade all'immediato, nel mese immediatamente precedente, alle prime avvisaglie della peste. Quindi è un rilevamento totale di tutta la diocesi con tutta una serie di dati quantitativi a 2 mesi dalle prime avvisaglie di peste. Vi è poi anche da calcolare la personalità piuttosto decisa e piuttosto importante del visitatore apostolico, una persona di altissima esperienza in questo mestiere come Gerolamo Ragazzoni. L'edizione della visita apostolica quindi è stata giudicata perché, e questo è un motivo anche dal punto di vista archivistico, perché soprattutto per l'età carolina, per i successori di Carlo Borromeo esistono alcune copie calligrafiche delle visite pastorali che non sono state spaccate, l'archivio storico diocesano di Milano non presenta delle serie complete delle visite apostoliche, cioè tutte le visite apostoliche sono state scisse e sono state riordinate per pieve o per porta cittadina. Le visite pastorali sono state scisse e riordinate per pievi moderne o contemporanee, per cui alcune pievi formatesi per esempio nel 78, la pieve di Abbiategrasso, ha materiali dal 78 come pieve di Abbiategrasso per i precedenti come pieve di Corbetta, quindi bisogna rilevarlo per poterlo fare. Teniamo presente che poi la sezione decima, che raccoglie le visite pastorali, non è stata completamente inventariata, cioè sono pubblicati gli inventari sino a pieve lacuali, l'ultima parte, cioè dalla lettera P alla lettera V, esiste semplicemente un inventario ancora dattiloscritto e considerato provvisorio. Non solo, all'interno di questa ultima sezione si sta procedendo ancora adesso allo sdoppiamento, allo smembramento di diversi faldoni per motivi di ordine, per riordinare meglio il materiale con l'idea di renderlo maggiormente accessibile. Di fatto non è completamente a disposizione. Quindi la possibilità di riscontro diventa estremamente problematico, perché noi per Milano non disponiamo di una serie continua e ordinata di visite pastorali. Allora, molto in breve, la validità di questa visita apostolica era l'arco di tempo e il fatto che il visitatore apostolico, proprio per i poteri particolari di cui era dotato dalla Santa Sede, poteva entrare in qualsiasi tipo di realtà diocesana. E quindi noi per la prima volta possiamo rilevare una serie di dati che Borromeo non era mai riuscito a rilevare. Per esempio, i Pia Loca che abbiamo già detto, gli ospedali cittadini e della diocesi, ma soprattutto i monasteri femminili sub cura regularium, che erano tolti dalla giurisdizione dell'ordinario diocesano, e le chiese regolari non curate sia dalla città che dalla diocesi, con tutta una serie di rilevamenti. Queste realtà, come poi dice il visitatore stesso nella sua introduzione, Carlo Borromeo non l'aveva tentato, ma aveva dovuto lasciar perdere per non creare guasti maggiori a livello politico. Che tipo di fonte ci siamo trovati davanti? La relazione che Gerolamo Ragazzoni invia alla Santa Sede è costituita da un volume calligrafico, cartaceo, di 447 carte, redatto in latino dal notaio Andrea Caroli. Alla fine reca un inventario delle iocali, cioè l'arredo della Sacrestia del Duomo di Milano, e il sommario delle possessioni che costituiscono il beneficio della mensa arcivescovile di Borromeo. A questa fonte, cioè alla relazione della visita apostolica, si aggiunge un'altra fonte che è stata tenuta presente per questa edizione, cioè il volume di decreti conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Milano, che di fatto è costituito da un altro manoscritto cartaceo di 588 carte, in cui sono stati travasate proprio le norme e la parte, diciamo, di soluzione proposta dal visitatore. Come si è proceduto per l'edizione? Dopo vedremo l'indicizzazione. Dunque, premetto, questo lavoro è già stato fatto, quindi si sta avviando, dovrebbe essere avviata fra qualche mese, le prove di stampa. Verranno segnalate all'interno della visita apostolica, a margine, con determinati segni diacritici appositi, il rimando del decreto corrispondente, quando questo decreto di fatto è la traduzione italiana del dettato latino. Verrà invece posto in nota ogni tipo di variante, sia aggiuntiva, sia di integrazione, sia eventualmente si segnalano le omissioni. Un esempio estremamente semplice: per la pieve di Dongio, nella parrocchia di Santi Luca e Fiorenzo, in Val Blenia, la visita apostolica dice semplicemente «Item plane statuens quod in supradicta». I decreti riportano due carte di disposizione, quindi in nota ci saranno queste disposizioni. Oppure, per Gallarate, la visita apostolica accenna a due sacerdoti sospesi dall'ordinario diocesano e reintegrati dal visitatore, nei decreti vengono riportati i verbali di assoluzione e quindi anche questi verranno aggiunti. Oppure il decreto in pochissime righe liquida le pievi di Varese, Valtravaglia, Cannobbio, Leggiuno, Besozzo, Appiano, Incino e Arcisate in quanto visitate l'anno prima dall'ordinario diocesano, la visita apostolica invece li analizza tutte dettagliatamente, quindi ci saranno questi varianti. Non si è ricorso, al di là dell'estensione abbastanza pesante della fonte, a un'edizione speculare, perché le due fonti non sono confrontabili, in quanto tutta la parte che riguarda città, chiese collegiate, parrocchie, chiese semplici, delle porte cittadine, monasteri femminili, i Pia Loca, le biblioteche, i carceri e le scuole della dottrina cristiana sono pari, quindi sono speculari. Le pievi per la visita, per la relazione mandata a Roma, seguono l'ordine cronologico, mentre nei decreti hanno una disposizione completamente diversa e in parte, ma solo in parte, sono ordinate secondo, diciamo, l'anzianità di visita da parte dell'ordinario diocesano, che si è potuto rilevare. L'ultima parte invece per le chiese regolari sia della città, del suburbio e della diocesi, e i decreti generali invece sono identici. In più esistono solo poche varianti per quanto riguarda i decreti generali che, riferiti alle monache. Allora, chiarito che lo scopo del lavoro era esclusivamente arrivare all'edizione della visita apostolica, si è posto un altro problema di predisporre, mentre si travasava il testo in computer, si procedeva alla computerizzazione, predisporre anche un sistema che permettesse contestualmente alla trascrizione della fonte una indicizzazione per poter poi estrapolare dati o semplicemente l'indice onomastico o l'indice toponomastico. La specificità dei dati poi della visita apostolica non consentiva di applicare delle schede già predisposte da altre viste o ricavabili anche da altri studi. È stato necessario quindi creare un lemmario che di fatto è il lemmario l'avete, questa è una coppia eventualmente, cioè avete una parte di lemmario, non avete tutto il lemmario, quello ve lo risparmia. Dunque, avete quello che dovrebbe essere lo schema del lemmario, l'indice delle sigle, che rispecchia l'intento in cui si muoveva il visitatore nel rilevamento dei dati, cioè un intento squisitamente giuridico-amministrativo. Questa operazione ha presentato all'inizio qualche problema, anche perché il lemmario, come lo si era concepito all'inizio, doveva essere pienamente compatibile con l'operazione di travaso del testo nel computer. Si è scartato l'ipotesi di utilizzare un programma database in quanto totalmente inadatto, perché il programma database prescinde dalla conservazione del testo. E invece si voleva arrivare a immettere un testo con anche, vedremo che cosa saranno le sigle, che consentisse poi con un'operazione molto semplice di spaccare immediatamente in due la fonte e ottenere da una parte l'indicizzazione e dall'altra il testo salvato, cosa che poi è stata fatta con un tempo piuttosto lungo, ma questa è tutta un'altra storia. Il programma da utilizzare quindi non doveva consentire l'uso di una griglia estesa anche o larghissima, ma un tipo amovibile con un comando abbastanza semplice. Si è adottato come programma l'XY2, che è un programma sperimentato soprattutto a Francoforte dall'Istituto per lo studio del diritto europeo, di cui ci sono dei volumi estremamente interessanti, soprattutto che sono partiti dagli studi del Repertorium Manuscriptorum Veterum Codici Giustiniani di Gero Dolezalech, per seguire poi sui volumi di Annalisa Belloni, sui professori giuristi a Padova e sulle questioni civilistiche. Un sistema di videoscrittura, questo XY, che consentiva poi l'uso di un altro sistema EDOR, pensato per la filologia giuridica, che abbiamo applicato in questo caso a un'edizione non di filologia, non giuridica, ma non alla visita apostolica, che per la prima volta che abbiamo fatto le prime estrazioni ha già dato dei buoni risultati. Quali erano i vantaggi offerti dall'adozione di questo sistema? L'XY è prima di tutto già in carattere ASCII e questo consente il travaso immediato a livello di uso di stampa o l'utilizzazione in un grande computer senza una trascodifica. Permette quindi di passare su un sistema di calcolo complesso e l'utilizzazione del sistema di calcolo Siemens. Dunque questa operazione, questo lavoro verrà condotto in porto grazie soprattutto alla grandissima disponibilità che noi abbiamo avuto dalla Siemens di Milano tramite il direttore amministrativo, il dottor Paperini, che ci ha messo a disposizione il centro di calcolo. Quindi noi possiamo operare sfruttando il centro di calcolo della Siemens. Infatti il primo prodotto di estrazione è stato fatto settimana scorsa grazie a questa possibilità. Il sistema di calcolo Siemens poi permette di utilizzare il linguaggio Fortran del programma EDOR e di adeguarlo, permette di estrarre dati e di combinarli secondo le necessità che si individuano, il tutto con la massima elasticità, e ciò si può eseguire su un testo scritto integralmente, purché vi sia l'accortezza di porre dei simboli a stringhe o parole chiave. Le stringhe poi le vedremo, perché c'è anche un esempio di stringatura finale. Il lavoro, il sistema di procedimento sul sistema operativo Siemens che è stato adottato per questo lavoro è il BS2000, ma questa è una questione del tutto secondaria. All'inizio dell'elaborazione di questa fonte, del processo di indicizzazione, si era pensato un lemmario di 80 voci circa, perché la fonte era stata letta, era stata valutata, ma qualsiasi tipo di lemmario, chi lavora sul computer lo sa benissimo, si può aggiornare o modificare nel momento che si lavora veramente sul campo. Diciamo che dopo l'immissione di meno di 30.000 byte, il lemmario si è dimostrato un disastro, per cui è stato riorganizzato nella forma che vedete adesso. Dunque, 20-30.000 byte sembrano molti, ma calcolate che la fonte computerizzata sono 2.600.000 byte. Questo per dare la dimensione del prodotto finito. È stato organizzato in... ci si arriva comunque, non è un'operazione di tipo terroristico, ci si può arrivare benissimo. È stato organizzato in 10 campi, questo qui perché si usavano, siccome si usava dopo la sigla di apertura di un qualsiasi lemma una doppia cifra, al limite si arrivavano a 99 campi possibili. Però, come potete vedere da questo indice, diciamo, delle sigle, non tutti i campi aperti sono stati utilizzati, non solo, ma all'interno delle singole sezioni non sono stati attivati tutti i campi possibili. Quanti sono i campi possibili per ogni singola sezione? Se noi calcoliamo il campo di due numeri e la coppia di lettere, noi per ogni singolo numero, diciamo, possiamo avere 676 varianti. In totale i lemmi utilizzati, cioè ricavati dalla vista, sono stati 1717, quindi un numero decisamente inferiore. Solamente in un campo si è dovuto ricorrere a tre lettere perché i lemmi recuperati superavano i 676 ed erano le località. Le località della diocesi di Milano sono 1009, per cui a un certo punto è stato gioco forza ad operare la terza lettera. Calcolando poi che si può passare a 3-4 lettere, la possibilità diventa un frattale, non è più controllabile al limite. L'importante è che la creazione della stringa, cioè del lemma da estrarre, non superi la videata, cioè la riga del video, perché altrimenti non si riesce più a estrarlo alla fine. La formazione del lemmario e la composizione delle sigle quindi corrisponde, abbiamo detto, ai dati ricavabili dalla vista apostolica di Ragazzoni. Nella posizione della sigla al lemma da indicizzare si è proceduto tenendo presente la possibilità di massimo sfruttamento per tabelle o indici del lemma stesso. Ogni singolo lemma quindi reca in un solo caso due sigle di copertura, e quando si indica la località e quindi si mette la pieve di appartenenza o la porta di appartenenza oltre che la località, in un caso tre sigle, la pieve, la località e la tipologia ecclesiastica, oppure in un'altra stringa la pieve, la località e il titolo della tipologia ecclesiastica. Di norma quasi tutti recano quattro sigle di individuazione sino a un massimo di 9, e quindi si può costruire al limite ogni lemma può dare al massimo 9 tipi di informazione, che è il numero massimo che può portare, perché altrimenti si deborda. Nell'individuare il lemma da computerizzare, tenendo conto come è stato creato il lemmario, se voi vedete alla pagina, state riportato semplicemente la sezione 20 e la sezione 30, che sono da una parte le associazioni di devozione e dall'altra le associazioni, io le ho chiamate, di assistenza in senso lato. Ogni parte porta tutte queste informazioni. Quindi io posso ricavare da ognuna di queste una serie di informazioni che incrociate mi possono dare determinati tipi di risultato. Per esempio, se io prendo il caso di un ospedale, io avrò la pieve di appartenenza dell'ospedale, il posto dove è l'ospedale, il fatto che questo è un ospedale, come si chiama questo ospedale, e ho quattro lemmi indicizzati. Se a questo leggo il 34HB, tanto per intenderci, e il 34HT, avrò anche la rendita dell'ospedale e il numero dei letti disponibili, secondo un certo procedimento molto curioso che non vi sto a spiegare, anche perché non è che abbia capito molto. Poi siamo alle prime fasi di estrazione dei dati, quindi è già tanto quello che stiamo dicendo. Come esempio, tanto per farci capire come sono stati posti i lemmi, consideriamo una frase abbastanza ricorrente: fenestras autem primo quoque tempore vitro vel tela contegi. Questa è nel momento in cui visita una chiesa. Le informazioni sono tre che vengono date: il tempo di attuazione del provvedimento, la modalità del provvedimento e il tipo di provvedimento che deve essere fatto. Il lemma, nella fattispecie 42FI, che indica la finestra, è stato posto su vitro vel tela, perché è chiaro che le finestre devono essere chiuse, è uguale per tutte, quindi è inutile darla come informazione, che deve essere fatto nel tempo più breve possibile. L'unica cosa un po' strana è il fatto che vengono coperte o ci sia l'alternativa vetro o tela. Questo qui è un esempio estremamente banale. Un esempio più non più astuto, ma magari forse più chiaro, è quando il visitatore controlla il cimitero. Allora, io ho lemma per indicare il cimitero, nella fattispecie 40CI. A questo punto non pongo il lemma su cimitero, ma lo pongo sul provvedimento, claudatur, sepiatur, eccetera. Per cui, richiamando tutti i cimiteri della diocesi, ho lo stato in cui sono questi cimiteri. Non lo si farà mai, perché penso che nessuno interessi tutto sommato sapere come erano tutti i cimiteri delle diocesi di Milano dal 75 al 76. È un esempio, però. Microfilia è un fatto. Allora, con questo sistema noi avremo la possibilità di avere una serie di indicizzazioni. Se voi prendete gli ultimi. Avete come si presenta in questo momento la visita. Allora, la visita sono due quasi simili, una con tutte le sigle e poi sotto, dopo due pagine, lo stesso testo senza le sigle. Diciamo che la pagina 3 e la pagina 4, tutto sommato. Ecco, no, poi alla fine sono tutte le stringhe che c'entrano niente per il momento. Dunque, si riferisce alla visita di Cesano Boscone, della pieve di Cesano Boscone, e comincia con AS100R, AS100V e poi continua ad un catedralis e poi ci sono da una parte 06CE e 09CE. Queste sono tutta la parte con le sigle, che diciamo è il file su cui si lavora, o perlomeno su cui si è fatta il primo lavoro grosso. Da questo è stato ricavato un altro file che è quello senza le sigle, che è il testo con la variante. È un testo incompleto perché manca tutta la parte di note archivistiche, che sta su un altro file che era inutile mettere adesso perché sarà il procedimento di stampa, ed è già una fonte piuttosto estesa. Siamo intorno, senza le note archivistiche, a 800 cartelle da 3200 battute, tanto per dare un'idea di che cosa sia. Da quel primo che abbiamo visto, testo più stringhe, è stato ricavato con un'operazione che è durata circa 2 minuti, un file di sole stringhe, cioè di soli lemmi indicizzati, di cui voi avete un esempio, quello intitolato Cesano Boscone lemmi 180. Cioè Cesano Boscone è riassunto in 180 indicizzazioni. E allora si lavora su queste cose e, se uno non si fa prendere dall'impressione, riesce a ricavarci qualche cosa. come, per esempio, ci sono dei numeri, se io estrapolo i numeri 5, 6, 7, 8, io avrò, e c'è la possibilità di farlo, una tavola con 8 uscite in cui avrò la pieve, la località, la tipologia e il titolo presenti in tutti, poi il nome del rettore, la provenienza del rettore, dove esso appare, il numero delle anime e il reddito del beneficio ecclesiastico. Cioè, in questo modo io ho quello per tutta la diocesi, che poi posso suddividere. Accorpando i numeri 2, quello che voi vedete come numero 2, ho invece il percorso di ogni singolo visitatore. Per esempio in questo caso è un CP, che è un Cristoforo Pilati, allora io avrò, se io estrapolo l'ultima, avrò tutto Cristoforo Pilati e grazie alle 4 precedenti questo lemma so dove è andato a finire. Se invece estraggo il numero 1 ho l'itinerario totale di tutta la visita. Sì. Accorpando invece 10 e 11 si avrebbe la data e il nome dell'ultimo visitatore della visita pastorale ove espresso. C'è anche un'altra possibilità, per esempio quella che è il numero 28, non so se lo trovate, comunque c'è un numero 28. No, non c'è il numero 28, è un'altra cosa. Estrapolando il numero 52, no, 52 ci dice che il numero prima del 14, noi abbiamo per esempio i giudizi che sono stati dati su tutti i sacerdoti della diocesi. Siccome tutti i giudizi dati sono accorpati in 28 categorie, ne ha dati di 28 tipi, quindi facendo 28 estrazioni successive abbiamo gli idonei, dove sono, oppure i satisapti, gli inepti, eccetera, in questo modo. E quindi si può procedere con 28 estrazioni successive. Le stringhe di tutta la visita sono queste. Sono per il momento, sono definitive e quindi si tratta di incrociare i 21.543 dati raccolti, alcuni dei quali mai verranno incrociati, nessuno ne fregherà assai. Però, per esempio, sono stati indicizzati anche il numero dei purificatori che vengono consigliati con la variante, oppure le pianete, oppure con i colori. Ci sono tanti. Tanto che si faceva un'operazione, la si faceva tutta, era inutile togliere l'arredo, la biancheria e curare semplicemente i concubini, non era un'operazione economica, dunque premesso che l'operazione non è economica, un'operazione di questo tipo è economica adesso nel momento dell'estrapolazione, perché praticamente in un quarto d'ora abbiamo ottenuto questo coso qui, però per fare questo coso qui di un quarto d'ora ci sono stati 2 anni e mezzo di buttare dentro dati con qualche periodo molto lungo di alienazione e di diozia, anche perché per esempio non si deve pensare che nel momento che uno scrive questo, perché venivano messi dentro contestualmente, per cui c'era il lemmario che in progress aumentava, e tanto per avere un'idea il lemmario sono 53 cartelle. Nel frattempo si scrivevano anche le istruzioni del lemmario, perché uno se le poteva anche dimenticare, uno non poteva computerizzare, non so io, la commenda in chiesa semplice dipendente dall'ospedale in un modo e poi in un altro, per cui bisognava avere presente anche queste cose, e quindi si è fatto anche quello. Però si buttava dentro un lemma solo, l'ultimo, che era quello specifico, mentre per ogni fine di chiesa, con un richiamo semplicissimo, questa è un'operazione veramente ridicola, si lanciavano i 4 precedenti che veniva automaticamente memorizzata. Quindi questo qua, il fatto di buttarli dentro sembra impressionante, il fatto che ce ne siano 9, ma diciamo 8 andavano dentro per conto loro una volta che si dava il comando. Ogni volta bisognava cambiarlo, questo è un altro discorso. Ecco, questo è il lavoro che è stato fatto finora e adesso si sta procedendo applicando il programma Edoro su questa fonte a predisporre una serie di indicizzazioni per esempio ci sarà quella che abbiamo detto molto generale, ma anche per esempio si riuscirà a estrapolare la distribuzione, il titolo e il reddito delle commende, dei gius patronati, delle abbazie, eventualmente delle chiese dipendenti se uno avesse proprio voglia di tirarle fuori, di tutti i tipi, di tutti i casi, oppure per esempio la tabulazione di tutti i monasteri incrociando località, pieve località, nome del monastero, ordine di appartenenza del monastero, numero delle monache esistenti, numero deciso da Borromeo, per esempio. Oppure per quanto riguarda gli ordini regolari, pieve località, tipo della chiesa, titolo della chiesa, numero dei frati esistenti, numero di quanti di questi dicono messa, numero di quanti di questi dicono, ascoltano le confessioni, perché i dati portavano quello. Basta. I risultati a stampa avvenuta.